Cari amici, sentirete probabilmente che questa non è la registrazione di un'omelia in chiesa, ma sto registrando nel mio ufficio, perché ho fatto l'omelia durante la messa stasera, ma non mi è venuta bene. E siccome l'argomento ritengo che sia molto importante, ho detto voglio riaffrontarlo per non lasciar mancare alla mia gente questo insegnamento. Eccomi allora. È il profeta Ezechiele, capitolo 3, versetti dal 16 al 21, in cui Dio dice a Ezechiele: Io ti ho posto come sentinella per la casa di Israele. Dunque questa parola sentinella teniamola in evidenza. Quando sentirai dalla mia bocca una parola, lui è profeta, no? Tu dovrai avvertire la gente alla quale ti mando da parte mia. Se io dico al malvagio, tu morirai, e tu non lo avverti e non parli, il malvagio morirà per la sua iniquità, ma io domanderò conto a te della sua vita perché tu non l'hai avvisato. Se invece tu lo avvisi ed egli non si converte e muore, egli muore per la sua iniquità, colpa sua, ma tu avrai salvato la tua anima. E così anche per il giusto, no? Se si mette a commettere il male, io ti dirò di avvisarlo. Se lui non cambia, morirà per il suo peccato, ma io chiederò conto a te. Se invece tu avvisi il giusto di non peccare più ed egli si converte, lui si salverà, perché è stato avvertito da te e tu sarai salvato. Cari amici, quante sentinelle ci sono oggi che non parlano più, che non avvisano che arriva il nemico? Sono sentinelle che sono sacerdoti, che sono genitori, che sono insegnanti, che sono pensatori, opinion leader, non parlano. Perché? Non perché siano sciocchi, non perché non abbiano capito, ma perché o hanno paura, o lo fanno per calcolo, o lo fanno per pigrizia. Io non posso fare tutte le esemplificazioni, fatele voi. Provate a verificare chi di voi è un educatore, è una sentinella, messo lì da Dio per avvisare le persone che lui educa. C'è uno sbaglio, tu educatore devi dirlo, senza saltargli in testa, eh? Perché se tu gli salti in testa, facilmente rovini il tuo intervento. E quello magari capisce anche la giustezza delle tue parole, però siccome tu lo prendi in sinistra parte, lui reagisce e non fa. Un educatore deve essere una persona squisita, l'arte dell'educare deve avere, ma non deve tacere. Io dico, io mi sento per la mia gente un cane da guardia. Alcune volte ho detto mi sento un cane pastore che aiuta il pastore per eccellenza a tenere in riga le sue pecore o i suoi animali, non farli andare nei pericoli, nei burroni, ma io sento anche di essere un cane da guardia, che abbaia e dice attenzione, ci sono i ladri, attenzione, c'è il pericolo. Però chiedo al Signore che mi dia la grazia di farlo in maniera corretta. Perché io posso dire anche una cosa vera, ma se la dico in maniera sbagliata, rovino il messaggio. Ecco, cari amici, lo dico anche a voi, guardate che è un compito difficile e dobbiamo pregare il Signore per non tirarci indietro e per non strafare. E ci sarebbero tante, tante cose da dire, amici. Anzitutto però, di valutare bene quando parliamo. Mentre noi abbiamo un dovere per le persone che ci sono affidate, noi dobbiamo stare attenti a non fare le correzioni alle persone che non ci sono affidate. Vi faccio un esempio. Un signore anziano è lì vicino all'edicola, arriva una giovane mamma con suo figlio, prende delle bustine di figurine, le apre e poi tira fuori le figurine e butta per terra. Questo signore interviene in maniera piuttosto rude e dice: "Non sporcare per terra, raccogli!" Suscitando l'ira della mamma. Ma come si permette? Ecco, capite che da una cosa buona che poteva fare, poteva forse farla in un'altra maniera. Oppure valutare con sapienza se era da fare. Cari amici, dobbiamo chiedere lo Spirito Santo, l'arte di educare. E poi dopo, anche se siamo incaricati, stiamo attenti che facilmente ci verranno legnate sui denti, come quella insegnante che un giorno riceve la visita di una mamma infuriata. Lei, signora, non si deve permettere di fare le osservazioni a mio figlio di fronte a tutti. Ma guardi, signora, io in genere non le faccio le osservazioni di fronte a tutti. Sì, perché era alla lavagna a fare una cosa e lei è intervenuta facendolo, umiliandolo di fronte agli altri. Ecco, anche qui. Bisogna vedere come questa insegnante è intervenuta. Io ho fatto l'insegnante 20 anni anch'io. Ho sentito miei colleghi che dicevano: "È un somaro", oppure "con rispetto per il somaro", dicevano, no? Oppure, no, non possiamo schiacciare i ragazzi, non possiamo. Nello stesso tempo dobbiamo trovare l'arte di dire, per esempio: "Tu hai fatto questa cosa, sei sicuro del risultato? Vediamo, non so, prova a ripetere." Voi capite che uno corregge un ragazzo che alla lavagna sbaglia, senza offenderlo e senza suscitare la reazione di una mamma che comunque fa un intervento stolto. Perché anche lei poteva chiedere all'insegnante personalmente cos'era successo, scusarsi, chiarire, perché lei difendendo il figlio in questo modo di fronte alla maestra è una pessima sentinella, perché abitua suo figlio alla prepotenza. Amici, scusate, mi sono dilungato, ma quanto bisognerebbe parlare dell'arte di educare. O Spirito Santo, vieni in soccorso nostro, rendici tuoi profeti, rendici tue sentinelle, ma con tutta la tua sapienza, con i tuoi 7 doni, la sapienza, l'intelletto, il consiglio, la fortezza, la scienza, la pietà e il santo timore di Dio. Lode a te, Spirito Santo.